Quando strimpella il mio vecchio organino, mentre più triste discende la sera, tutto mi sembra divino, pure se il cuore non spera. Canta e ripete l'eterna canzon, la speranza è una vana illusione. Con te, senza te, noi cantiamo alle stelle, alla luna. Chissà che per me non arrivi la buona fortuna. Se cambia il motivo dei vecchi organini, potrebbe in un giro cambiare il destino. Verrà, non verrà, forse accanto e nessuno lo sa. Cambia il motivo dei vecchi organini, potrebbe in un giro cambiare il destino. Verrà, non verrà, forse accanto e nessuno lo sa. Se cambia il motivo dei vecchi organini, potrebbe in un giro cambiare il destino. Verrà, non verrà, forse accanto è.